effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! Ciao a tutti e a tutte i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat che, come ormai avrete imparato, dopo il piccolo campionamento di Potere alla Parola di Frankie Energy MC, pezzo molto datato, comincia lo spazio radiofonico su Radio Wombat della Stampa Rassegnata. La Stampa Rassegnata che dalla fine di luglio, in concomitanza con quello che sarebbe sostanzialmente la ricorrenza delle giornate di Genova 2001, che sono state il 19, il 20 e il 21 luglio appunto del 2001, abbiamo deciso di dedicare a una rivisitazione postuma di quello che è stata l'esperienza storica di quel movimento e degli accadimenti di quei giorni. Siccome con questa trasmissione, che è la 34esima puntata della Stampa Rassegnata, andremo a chiudere questo spazio che abbiamo appunto dedicato per l'estate a questi fatti, faccio un brevissimo riepilogo di quelle che sono state le puntate estive come una sorta di guida all'ascolto nel caso in cui siate interessati a ripercorrere questo spazio e questa parentesi che abbiamo aperto all'interno della nostra trasmissione, che invece si occupa solitamente e per vocazione della cronaca locale. Allora, il 27, o meglio, la puntata numero 27, la 28 e la 29, in queste tre puntate, 27, 28 e 29, trovate spezzate e introdotte sempre dalla mia voce un lungo redazionale di Radio Onda Rossa che nel decennale di Genova ha avuto l'intelligenza, la capacità politica e anche militante come forma appunto di impegno redazionale di tenere da parte alcuni giornali, le principali testate giornalistiche italiane, nei giorni che hanno preceduto e che hanno seguito il G8, le contestazioni al G8 di Genova nel 2001. Quindi è un lungo redazionale in cui i due compagni della redazione leggono i giornali e fanno commenti appunto rispetto a quello che usciva in quei giorni. Ovviamente ascolto consigliato, non più sotto l'ombrellone, ma forse diciamo a latere della vendemmia, che chiaramente come trasmissione che a me è sembrata molto interessante ve l'ho riproposta e quindi la consiglio. La trovate spezzata in tre parti per esigenze di tempistiche radiofoniche nelle puntate 27, 28 e 29 che potete scaricare attraverso i podcast che trovate nel sito di Radio Wombat. Poi abbiamo utilizzato anche le puntate 30 e 31, all'interno delle quali invece trovate una registrazione sempre a cura di Radio Onda Rossa, che all'epoca registrò in streaming e insomma diffondendolo attraverso le sue frequenze, una iniziativa pubblica, un'assemblea pubblica di lancio della campagna 10%, campagna 10% che aveva l'obiettivo di stimolare la solidarietà nei confronti degli accusati nel grande processo contro devastazione e saccheggio che è stato, se vogliamo, anche diciamo il leitmotiv con il quale e attraverso il quale si è riparlato di Genova una decina d'anni dopo, fino in qualche modo ad oggi, perché appunto coloro che sono stati incarcerati lo hanno fatto proprio per l'accusa e la condanna subita per il reato di devastazione e saccheggio. Quindi in quell'iniziativa pubblica la campagna 10% attraverso alcuni esponenti principalmente legali che si sono messi a disposizione per seguire e sostenere gli accusati espone il suo punto di vista non solo nei termini della solidarietà che cerca rispetto agli accusati come sempre spese legali e quant'altro, ma anche da un punto di vista, se vogliamo, sociologico e politologico, nel senso di scardinare i cliché e diciamo quel tentativo di cucire addosso ai manifestanti il ruolo di devastatori e saccheggiatori, e di appunto attraverso la costruzione di un nemico interno agevolare e permettere il ruolo della repressione, anche di quella giudiziaria, che comunque a Genova è stata usata non meno violentemente dei manganelli durante quei giorni. E ripeto, nelle puntate 30 e 31. Invece, nelle ultime tre puntate, che sono la 32, la 33 e questa, che state ascoltando, che è la numero 34, abbiamo spezzato in tre parti, sempre ovviamente per esigenze di spazio radiofonico su Radio Wombat del nostro palinsesto, una lunga chiacchierata, anch'essa a mio avviso molto interessante, che è stata la registrazione, l'abbiamo trovata sempre nell'archivio di Radio Onda Rossa, di una, appunto, di una assemblea pubblica, presentazione del film Diaz con la presenza dell'autore Daniele Vicari. In questa puntata, in queste tre puntate, dove va in onda questo lungo talk, non solo il regista parla, non solo il regista ovviamente, ma ci sono anche molti interventi dal pubblico, che è un pubblico militante, un pubblico che partecipa. Molte delle persone che intervengono sono state protagoniste delle giornate di Genova, le hanno vissute sulla loro pelle e quindi hanno subito quel tipo di educazione sentimentale che è stata giocata dallo Stato italiano contro la generazione che a Genova, insomma, alzava un po' la testa e si è formata da un punto di vista, o comunque era in formazione da un punto di vista militante e ribellistico. Quindi in queste tre puntate, questo lungo talk che va a chiudersi con la puntata di oggi. Daniele Vicari ci ha portato un po' nel retroscena, nelle aspettative, nel come, nelle modalità con cui ha tentato di narrare quella che è stata la vicenda Diaz, e le domande che credo senza presunzione, ma con un tentativo a mio avviso legittimo di portare un po' sul grande schermo e far fuoriuscire dai circuiti più militanti o comunque più attenti e più attivi rispetto alle trasformazioni della società, ha tentato di aprire attraverso questo film diverse domande. Ovviamente domande che parlano anche al nostro presente, non solo perché si riferiscono a un avvenimento, quello di Genova, di 17 anni fa e quindi tutto sommato ancora il presente, ma anche perché attraverso Genova e quel tipo di lente e tipo di lettura sulla realtà si possono, secondo me, ed anche per questo vi ho riproposto tutta una lunga serie di materiali proprio su quei giorni e su quel movimento, guardare, comprendere meglio le trasformazioni e ciò che avviene ad oggi. Non ultima, direi in modo molto molto chiaro, quello che è stato il, diciamo, una sorta di inseguimento tra ordine pubblico e percezione sociale delle forze dell'ordine, cioè credo sia, si possa dire come un fatto oggettivo più che una mia opinione, il fatto che sia i fatti di Genova in quanto tali, sia il lavoro del movimento nel commentarli, nel dargli spazio e farne controinformazione, hanno per un buon decennio messo seriamente in crisi l'immagine e la percezione sociale delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine sostanzialmente nel loro complesso, perché non solo i carabinieri che sono stati protagonisti dell'assassinio di Carlo Giuliani in Piazza Limonda, non soltanto la Polizia di Stato, che è stata invece la protagonista indiscussa dell'assedio alla Diaz, ma un po' tutte le forze dell'ordine, proprio perché nei giorni di Genova e prima ancora, come abbiamo, credo in modo assolutamente importante e imprescindibile, ricordato il ruolo di tutte le forze di polizia anche nelle giornate del Global Forum di Napoli nel marzo sempre del 2001, dirette da un governo di centrosinistra e non dal governo Berlusconi, come avvenne invece nelle giornate di Genova. visto come tutte le forze politiche nel loro complesso e le forze dell'ordine nel loro complesso sono state impegnate e quindi insomma sono state protagoniste di quegli atti efferati e brutali che credo sono penetrati nell'immaginario collettivo. Proprio per questo questa crisi di immagine, di percezione sociale del ruolo delle forze dell'ordine, quindi non più al servizio del cittadino ma al servizio dei poteri forti e quindi potenzialmente anche addirittura pericolose per gli stessi cittadini e manifestanti, anche laddove si esprimessero in forme pacifiche e diciamo non violente, come infatti è stato una delle caratteristiche dell'impiego delle forze di polizia a Genova, cioè che hanno picchiato e brutalizzato in maniera indiscriminata, questa cosa appunto ha messo in crisi la loro immagine, come credo si possa dire non avveniva dalla fine degli anni 70, quando con le leggi speciali, con le leggi antiterrorismo e con quella che in qualche modo segna il cambio delle regole d'ingaggio che fu la legge Reale, appunto l'immagine delle forze dell'ordine era abbastanza compromessa. Comincia quindi un lungo lavoro di propaganda da parte delle forze dell'ordine nel loro complesso, guidate appunto dallo Stato e dalle forze politiche che le sostengono in maniera, oggi si direbbe, bipartisan, questo lungo lavoro per ribaltare di nuovo la situazione. E quindi abbiamo le fiction, e quindi vediamo banchetti e sportelli informativi e gazebo in ogni manifestazione, si diffondono veramente in ogni dove, dalle sagre di paese alle festicciole, alle iniziative nelle scuole, fino appunto all'alternanza scuola-lavoro che si può oggi addirittura svolgere anche presso sedi del appunto sì o di polizia o dei carabinieri o addirittura dell'esercito. Abbiamo visto e l'abbiamo sentito denunciare con la scusa per esempio della gestione di alcuni importanti siti che hanno anche un valore storico artistico e che negli anni sono diventate caserme, e quindi poi ci si può svolgere l'alternanza scuola lavoro perché in qualche modo si sta facendo arte o museo, però insomma si sta all'interno delle forze armate. E quindi insomma abbiamo visto tutta questa serie di iniziative che hanno sicuramente scavato profondamente la società italiana e credo ci diano in qualche modo delle risposte sul perché poi il legalismo e la sicurezza sono diventate temi fortissimi non solo di quelle forze politiche che già erano esistenti e presenti nelle giornate di Genova e negli anni successivi, ma anche di quelle che sono nate negli anni successivi. Penso per esempio, primo tra tutti, a quella che oggi è la prima forza politica, in qualche modo è forza politica di governo, cioè il Movimento 5 Stelle, dentro il quale il tema della legalità e della sicurezza, declinate non solo nei termini della giustizia sociale, ma proprio del rispetto delle regole in quanto tali, fino quasi al formalismo di esse, è un tema molto forte. Credo che le giornate di Genova e quello che è successo negli anni successivi diano in qualche modo una chiave di lettura, se non come dire univoca, quantomeno importante da tenere in considerazione. Insomma, con questa puntata andiamo a chiudere questa lunga serie di discussioni su Genova, ripeto, con l'obiettivo di incuriosirvi e di farvi, così senza alcuna presunzione come mai lo sono le nostre trasmissioni, di far riflettere anche su quello e su quei passaggi che hanno cambiato il rapporto tra manifestanti e forze dell'ordine, che hanno fortemente immesso delle trasformazioni rispetto all'ordine pubblico, alla militarizzazione dell'ordine pubblico, che poi sta diventando sempre più in modo determinante militarizzazione dell'intera società, cambiando insomma fortemente anche, o tentando di farlo, di cambiare fortemente la stessa antropologia delle nostre società. Si vorrebbe sostituire alla solidarietà il senso di cameratismo, cosa che credo appunto nell'esperienza della scuola Diaz e dell'assalto alla scuola Diaz e di quello che è successo nei rapporti tra le forze dell'ordine è molto forte e molto presente. Vorremmo appunto che tutto questo non succedesse più ed è anche per questo che abbiamo dedicato questo spazio a Genova. Purtroppo le nostre democrazie dimostrano di sapersi avvalere di momenti come quelli di Genova, si reggono sostanzialmente sull'uso della forza, sul monopolio della violenza da parte dello Stato. Tutto questo, appunto, come giustamente dice Daniele Vicari, questo talk al quale vi lascerò tra breve per le conclusioni, ci mette fortemente in dubbio la convinzione generalizzata di vivere in democrazia, o piuttosto la democrazia è un'altra faccia del dominio di classe. Con questo vi saluto e vi aspetto per le prossime settimane, nelle quali riprenderemo il nostro lavorio di controinformazione o di commento alle cronache locali e torneremo a parlare dei nostri protagonisti fiorentini. Sicuramente non mancheremo di dare un'occhiata alle nardellate che già si preparano per il futuro e che si sono già sviluppate con le loro nefaste conseguenze anche per quest'estate. Quindi un buon ascolto per quest'ultimo talk, un ringraziamento a tutti voi per l'attenzione e la pazienza che ci dedicate e a presto, ciao ciao! Ed è che mi sembra che non è molto chiaro dal punto di vista politico, perché infatti mi ha fatto dubitare subito dopo che l'ho visto. Non capivo molto bene l'intenzione del film. È chiaro che è un film di denuncia, però quest'ultima scena dei francesi che si rendono conto di in qualche modo aver causato questa strage, no? Tutte queste persone massacrate in qualche modo avevano sofferto per colpa loro, che erano i veri terroristi, per così dire, i veri violenti. E a me personalmente ha fatto pensare che sotto quest'ordine di idee la polizia avrebbe avuto veramente una ragione in fondo per attaccare i manifestanti, perché questo voleva dire che c'erano veramente i violenti, che c'erano... Mi è sembrata una specie di giustificazione. Questo come una prima domanda. Mi è sembrato che lei abbia fatto una denuncia più del comportamento, dell'agire dei poliziotti, che del governo italiano, che sono sicura conosceva la situazione. E quindi alla fine risulta anche per i personaggi, diciamo, che lei ha scelto, il modo in cui li ha trattati, mi pare che... Chiedo scusa se ci metto un po', non sono italiana e per me è difficile. Scusate. Bene. In ogni caso, mi è sembrato che lei ha evidenziato di più